C'è signor Patrussi, sì, c'è sì, lei? Io veramente mi devo mettere a sedere ancora. Ah, va bene, sempre organizzatissimi. Bentornati, Old Time Rock and Roll, questa è Radio F, 28esima puntata, dico bene? Sì, giusto. Organizzatissimi, via. Mi è toccato fare una furia, una forza. Ancora c'è un certo. Poi oggi mancano i tecnici. Mancano i tecnici. Infatti c'è Paolo. Sì, special guest Paolo. Alla regia. Che ci dà regia. E quindi iniziamo, sì, la iniziamo. puntata oggi fatta così. Sì, così. Un'altra puntata pazza. Un'altra dai. Puntata pazza. Esatto, come sempre due canzoni scelte da noi che vi proponiamo. Anche che, tre. Anche tre, esatto, che chiaramente non dovranno essere per perché forza lui rock. C'ha sempre da distinguersi, capito? Se noi si dice due, lui deve fare tre, giustamente. La prossima volta farò quattro, che devo fare? La prossima volta farà quattro, noi una. Una. E allora inizio io parlandovi di Strange World, che è il primo e più conosciuto brano del cantante newyorkese Key, pubblicato come singolo nel 1996 e in seguito inserito nell'album di debutto dell'artista I'm Strange World. È un inno alla pace, ricordato soprattutto per il particolare timbro di voce del cantante, che ricorda quello di una donna. Il brano all'epoca ebbe una popolarità immensa in Italia, arrivando fino alla settima posizione dei singoli più venduti. Poi voi non ve la ricorderete questa canzone, però appena l'ascolterete vi ritornerà subito. In mente subito. Vediamo, quindi vediamo. La lanciamo è Che con Strange World. Che. Strange world. talk, sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. World, la prima canzone del nostro carissimo speaker Nanno. E adesso la mia prima canzone di oggi, la prima che ho scelto. E loro sono i 30 Seconds to Mars con From Yesterday. From Yesterday è un singolo pubblicato dalla band americana, appunto, i 30 Seconds to Mars. Terzo estratto dal loro secondo album, A Beautiful Lie. Lie, come l'ho pronunciato male? Lie. Succede, lie. Succede, lie. Tranquillo. No, sì, sì. Lie, A Beautiful Lie. Bugia, sì, è vero. No, pensavo di mi era uscita male. Ha vinto il premio Best Single ai Kerrang Award nel 2008. Il video della canzone, realizzato da Jared Leto stesso, è il primo video americano realizzato nella Repubblica Popolare Cinese. Pensa un po'. Bel colpo, è un bel colpo. Non è facile. E adesso i 30 Seconds to Mars con From Yesterday. He's a stranger to some and a vision to none. He can never get enough, good enough for the one. For a fortune quit, but it's hard to admit how it ends. And it gets on his face, there's a map of the world. Map of the world. On his face, there's a map of the world. A map of the world. From from yesterday, it's come. devono sta su. No, non devono sta su. Eh no. Allora, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati più o meno 4 minuti fa. 30 Seconds to Mars, From Yesterday. Questa bellissima canzone recente, fra l'altro, se non erro, giusto? Sì, sì, abbastanza recente. E adesso vi parliamo di una canzone abbastanza particolare dei Subsonica, ovvero As Patriot to Arms. C'è scritto Up, però sarebbe As, non lo so come mai. Che cambia anche un po' il senso della frase. Sì, infatti. È un singolo dei Subsonica, appunto, del 2011, in collaborazione con Franco Battiato, estratto dalla riedizione dell'album Eden. Il brano, famosissimo cinema di Arezzo. Sì, l'Eden. Certo. Che fra l'altro adesso è a rischio chiusura. C'è una petizione in corso. Ah sì? Sì, sì. Non lo sapevo, dice che forse chiude. Peccato, perché insomma è un pezzo di storia. Sì, è un pezzo quando di storia di Arezzo, cioè non è quando chiudono i cinema a sala singola è sempre un pezzo di storia. Eh sì. Comunque il brano è una cover della canzone originariamente incisa proprio dal maestro Battiato nell'album Patriots del 1980. Non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. I'll bet you it's two arms. Per notte santità, abbocchi sempre all'amo. Le barricate in piazza, li fai per conto della borghesia, che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo, per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. I'll bet you to arms, engagez-vous. È giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser. Se le pedane sono piene di scene che si muovono. I'll bet you it's two arms. La musica contemporanea mi butta giù, mi butta giù. Up Patriots to Arm, i Subsonica. E adesso continuiamo. E continuiamo con. Non ti casare. Io do lezioni. Io dico. Io do lezioni io per dico... i tecnici che mancano. Ok, Bindo e il Mas. Do lezioni di DJ. Pensano che poter fare solo loro. Dal lunedì Patru. Al martedì, dalle 8 alle 9. Grazie. Patru, io ti dico bravo. Grazie. Bravo. E come dicevo, ora vi vado a parlare di American Idiot, che è un singolo della band americana Green Day, il primo estratto nel 2004 dall'album omonimo e registrato dalla Reprise Record. Il titolo è una storpiatura dileggiante. Si vede che non l'ho scritta io questa scaletta. Di American Idol. Chi l'ha scritta, precisiamo? Il Bindi, mi sa. Oh, il Bindi. Ecco. Trasmissione molto nota, andata in onda negli Stati Uniti d'America. Nella canzone, in stile punk rock, sono presenti chitarra elettrica. Che è successo? Ho visto una cosa qui sotto bellissima. Quando ci arrivi te ne accorgi. Aspetta, forse l'ho intravista. Oddio, stile oddio punk muoio. Rock, sono presenti chitarra elettrica, basso elettrico e batteria. La canzone parte con un riff di chitarra e batteria e si ripete in continuo nelle canzoni, nella canzone, alternandosi con brevi strofe cantate da Billy Gillo Armstrong. E glissiamo. Grande Gingillo, anche qui, Gingillo. Il ritornello è diviso in due parti, da ritmo uguale. Ed evidente la presenza della chitarra elettrica. Dopo due ritornelli c'è un assolo di chitarra con le note che canta Armstrong nel ritornello. Poi sono ripetute velocemente le strofe di Armstrong della prima parte della canzone e dopo un ultimo ritornello. La canzone si conclude con lo stesso giro di chitarra che caratterizza tutta la canzone. Della canzone, perché i sinonimi noi non ce li abbiamo. La canzone, vedi, è considerata una polemica verso il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, ovviamente, George W. Bush, e verso la sua politica che, secondo loro, i Green Day, nella canzone, è basata sui media e sull'alienazione. Questo si evince da gran parte del testo della canzone. Per esempio, don't wanna be an American idiot, don't want a nation controlled by the media. Non voglio essere un americano idiota, non voglio una nazione controllata dai media. American Idiot, Green Day. Entrano i Green Day con American Idiot, la prima canzone scelta dal nostro tecnico Masa, che oggi non c'è, non è con noi. Ricordo perché questa canzone che avete appena ascoltato l'ho lanciata io. Sono stato io il tecnico benissimo di questa canzone. E ricordo sempre che ai due tecnici che mancano, al Bindi e al Masa, che do lezioni di DJ il lunedì e il martedì dalle 8 alle 9. Ciao, grazie. Oggi veramente lezioni di alto rango, attenzione, perché chi volesse partecipare ai corsi è pregato di rivolgersi a... di prenotarsi per tempo. L'ufficio acquisti. L'ufficio acquisti. No, vabbè. Adesso vado a leggere la prima canzone del nostro Bindo, che è Superstition, una canzone scritta nel 1972 da Stevie Wonder e registrata da Wonder per l'album Talking Book, da cui fu estratta come primo singolo. Il brano fu prodotto dallo stesso Wonder. Inoltre nel 1973 vinse il Grammy Award alla miglior canzone R&B ed il Grammy Award per Best R&B Vocal Performance Male. Però non male, Stevie Wonder. Stevie Wonder, Superstition. Torniamo adesso, diciamo, all'attualità. Questo è un brano del 2012. concepito... Guarda Valerio come smanetta in quei tasti, in quei cursori, in quei... Bravo. Ha una certa... Ha un certo... cosa sto facendo. Ha preso lezioni da me. Ha un certo charme, un certo non so che. Bravo Valerio. Il 12 giugno 2012 fu annunciata la pubblicazione di un nuovo album intitolato House of Gold e Bones degli Stone Sour. Il disco fu annunciato come un concept album diviso in due parti. La prima parte fu pubblicata il 22 ottobre 2012, mentre la seconda è stata pubblicata il 9 aprile 2013, dunque pochi mesi fa. Sì. Estraiamo da questi il singolo Taciturn. Across the sea to you, I've left myself deserted here again. Across the sea to you, my pieces are too broken now to mend. In the middle, under a cold black sky, the sun will only burn for you and I. In the moment before I lose my mind, these hours don't mean anything this time. Give me a sign, show me the line. Maybe tonight I'll tell you everything. Give me a sign, show me the light. Maybe tonight I'll tell you everything. Across the world for you, my reasons have no reason to remain. I crossed the world for you. I don't know what I'm doing wrong, but I can't stay the same. In the middle, under a clear sky, the sun can only burn for you and I. In the moment before I lose my mind, these hours don't mean anything this time. Give me a sign, tell you everything. Stone Sour, Taciturn. E adesso continuiamo con un'altra bellissima canzone, ovvero One degli U2 o U2 come preferite. Uscita come singolo nel marzo del 1992, estratto dall'album Achtung Baby, pubblicato nel novembre 91. Un lungo dibattito accompagnò le diverse interpretazioni del termine One che dà titolo a questa canzone. La versione più ovvia vede nel testo semplicemente una difficile relazione amorosa. Due persone che non riescono a mantenere stabile il rapporto per continui litigi e ferite reciproche. In un'intervista di Age su Q Magazine sembrava avvalorare questa tesi. Il chitarrista si sentiva spesso dire che la canzone veniva suonata ai matrimoni e rispondeva stupito: ma avete ascoltato il testo? Non è quel genere di canzone. Alcune interpretazioni vedono in One l'unicità in senso spirituale, altri tendono ad associare il testo alla riunificazione tedesca della band, ovviamente, visto il periodo speso proprio da loro in Germania. L'interpretazione più condivisa, e comunque la versione che è considerata il che considera il testo parlare in verità della vita passata assieme al padre da Bono, Van, dopo che questi perse la madre all'età di 14 anni. Il testo pare riferirsi proprio alle difficoltà nel superare questa perdita. Nell'album dei Breakthrough, pubblicato nel 2006 da Mary J. Blige, ha inserito proprio una reinterpretazione di One, da cui estrasse un singolo di grande successo, ed è proprio questa canzone quella che facciamo ascoltare. Quindi U2 insieme a Mary J. Blige con One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life, one need, the night, mm-hmm. One love, one love. Get to share it. Oh. Leaves you, darling. You don't care. Mary, did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me. Hey! Ed era Mary J. Blind. Blige. E you? Due. Più. You too. Adesso sta a me. Tieni. Grazie. Prego. Lo sapevo che facevamo confusione con queste scalette. La mia seconda canzone di oggi. E sono loro, sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side. Bella, bella. Il terzo singolo del loro album Californication. E confronta le battaglie ex Junkies con le loro precedenti dipendenze. È stato probabilmente dedicato al loro defunto membro Hillen Solbach, che morì di overdose. Infatti le parole del brano, leggo direttamente, traduco già: ho sentito la tua voce attraverso una fotografia, ci ho pensato e mi ha riportato al passato. Ormai lo sai che non puoi mai tornare indietro. Questo suggerisce che non sarebbe mai più tornato indietro dall'eroina. È stato in prima posizione nella classifica Alternative Song ed è stato il secondo singolo più alto in classifica dell'album Californication, raggiungendo la 14ª posizione negli Stati Uniti. E adesso Other Side con Red Hot Chili Peppers. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Red Hot Chili Peppers. Esatto. Other Side. Yes. And now parliamo di Bob Dylan e Blowing in the Wind. La seconda canzone scelta dal nostro palestratrissimo Bindo. Palestratrissimo. Trentini. Entrarono a Trento. Tutti e 33 trottelle. Palestratrissimi. Dovevo farli prima questi esercizi. Forse però Pietro Prota potrà proteggere. Forse Pietro potrà proteggere. Li vuoi quei kiwi? Ah! Prego. Allora, dicevamo, Bob Dylan voleva che quei kiwi e ha se li vuoi quei kiwi wind. Se li vuoi quei kiwi. Blowing in the Wind è una famosa canzone di contenuto pacifista scusate, prego, scritta da Bob Dylan nel 62 e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album The Free Willing di Bob Dylan. Questo brano è da molti considerato il manifesto della generazione dei giovani statunitensi disillusi dalla politica portata avanti negli anni 50 e 60 dal loro paese e sfociata dapprima nella guerra fredda e poi nella guerra del Vietnam. Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Ed era il signor Zimmerman, giusto? Yes. Con Blowing in the Wind, quindi Bob Dylan. Adesso andrò a parlarvi di una canzone a me molto cara, ovvero Time is Running Out. È un singolo del gruppo musicale britannico Muse, il secondo estratto dal terzo album in studio Absolution e pubblicato l'8 settembre del 2003. Dunque per te è un momento a Marcord questa canzone? Ma sì, sì, sì, sì. A me è molto cara. Sì, è molto cara, molto cara, perché c'era quel video, ti ricordi? Stava pensando cosa vuol dire Amarcord. Ignoranza. Il brano divenne uno dei maggiori successi della loro carriera e presenta influenze tratte da Billie Jean di Michael Jackson, artista al quale i Muse si sono ispirati, inserendo anche come effetti di sottofondo lo schiocco delle dita. Inoltre è stato il primo singolo del gruppo ad arrivare ad entrare nella top 10 della UK Single Chart, posizionandosi all'ottavo posto. Il videoclip del brano, diretto da John Hillcoat, mostra una rappresentazione basata sull'idea di un governo segreto che, invece di prendere decisioni sull'andamento del mondo, si siede intorno ad un tavolo e perde tempo giocando tra di loro. come fanno realmente. Realmente. L'immagine che ha ispirato il regista del tavolo dove si incontrano i vari militari è un omaggio al film del 1964 di Stanley Kubrick, Il dottor Stranamore. Mentre l'idea della danza sincronizzata alla canzone voluta da Bellamy, il cantante, è liberamente ispirata al video dei Daft Punk Around the World. I Muse con Time is Running Out. Ed erano i Muse con Time is Running Out. Ma è prepotente sta base, Patro. Me l'hai messa proprio. Sì, bravo. Allora io per stasera vi devo salutare, perché purtroppo ho gli allenamenti e Miss Testimone, sennò mi fa così. Ci stiamo spaldando come le torri gemelle. Quindi saluto tutti e vi invito alla prossima settimana a riascoltarci la puntata vi è piaciuta. Saluti, vai via. No, te ricordati di scaricare per il podcast, se fai no, tardi, nada. Fai tardi, Valerio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Nanno. È andato via? No, sono ancora qui. Ho fatto la pinta. Vai, ora lo puoi infamare. Vai. A lei la parola, Luke. Allora, concludiamo questa Crazy Hits, la puntata pazza, con l'ultima canzone. dei Lit Fiba del grandissimo Piero Pelù. Sì, seconda canzone, seconda ed ultima canzone di oggi del Masa. Sì, del biondo. Sì. Praticamente è Il mio corpo che cambia, che è un brano della rock band italiana degli Lit Fiba, appunto. È il primo singolo estratto nel 1999 dall'album Infinito. Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Benissimo ragazzi, questa era la nostra ultima canzone per oggi, era Il mio corpo che cambia dei Lit Fiba di Piero Pelù. Sì, l'ultima adesso canzone di oggi. Siamo in chiusura. Siamo come in chiusura, sentite dalla base, come sentite dalla base? Senti, senti. È la nostra sigla. È la nostra sigla. Questa che bella sigla del Ciucca. Anzi, ricolgo la palla al balzo per ringraziarlo di nuovo per questa bellissima sigla, sì, perché davvero sì, è favolosa. Non poteva essere, non poteva darci una sigla migliore, davvero. Sono stati, senti qua, senti, senti. Bellissimo. Ma poi come la alzi te? Io non, come sentite ragazzi, come senti? E poi abbasso. Sembra che la suoni te la chitarra. Grazie. Allora, rinnoviamo l'appuntamento con All Time Rock and Roll. Paru. Yes, rinnoviamo l'appuntamento. Come sempre noi ci ritroviamo, ci potete riascoltare mercoledì prossimo, l'orario è sempre quello, dalle 19 alle 20. Ricordo anche i nostri appuntamenti, la pagina Facebook Old Time Rock and Roll Radio F Val di Chiana, dove dovete mettere mi piace, commenti, I like. Potete fare anche chiaramente delle dediche, beh, certo, perché no? Ovvio. Dei quesiti, dei miglioramenti da porci, anche offese in privato magari chiaramente quelli però al profilo del nostro tecnico Bindi. Sì, Riccardo Bindi, le offese sì, a Riccardo Bindi. Sempre quelle, solo quelle in privato chiaramente, non perché sennò poi magari si offende, però vabbè, lasciamo perdere. Ricordiamo anche il podcast che adesso sta andando, che poi metteremo sempre sulla pagina Facebook, e ricordiamo anche il contest, le 5 canzoni che noi scegliamo e che voi potete votare. Chiaramente di queste 5 quella che avrà più voti andrà in onda, la metteremo in onda. Sì, beh, da mercoledì allora ripartiremo con la nuovissima puntata. Sì, di DJ Sandy. È vero, sì, sì, sì. Un grandissimo ritorno. Una colonna portante di Radio F. Con la sua trasmissione radiofonica Sugar Night, che sì, grandissimo. Tutti i mercoledì dalle 22 alle 23. Un appuntamento imperdibile. Non perdetelo, ragazzi, mi raccomando. Beh, niente, siamo giunti a saluti. Devo dire questa sera puntualissimi, 19:59, anzi leggermente in anticipo. Siamo volati. Mamma mia, allucinati. Ma perché sono questi altri, questi sì, due, due tecnici che sempre, sì, infatti senti, ma perché sono io che metto la sigla che allucinante. Dai ragazzi, vi saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Ciao.